America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Pechino. Mario Platero, sono al seguito del presidente Obama che sta partecipando al vertice APEC. Ecco, questa è la musica rilassante, gradevole, come avete ascoltato, che ha accolto ieri i 21 leader dei paesi membri dell'APEC, la cooperazione economica per i paesi che si affacciano sul Pacifico. E dunque, prima di riflettere sulle notizie di oggi, che devo dire riguardano soprattutto il vertice APEC, che è un importante accordo commerciale per l'eliminazione delle tariffe sui beni ad alto contenuto tecnologico, notizia, vi ripeto, importante, e voglio però prima raccontarvi dell'atmosfera di questo avvio dei lavori, perché ho avuto la fortuna di rappresentare il pool della Casa Bianca alla cerimonia di arrivo e mi sono trovato a pochi passi dal presidente cinese Xi Jinping, che aspettava i leader dei 21 paesi membri per salutarli ufficialmente, e dunque ho potuto cogliere così da vicino, soprattutto fra Obama e Xi, elementi di distensione che devo dire ho trovato molto rassicuranti in questo momento in cui sul piano globale registriamo soltanto un aumento di conflitti e della tensione internazionale. Intanto il quadretto d'insieme, avete sentito Xi Jinping che dà il benvenuto, il presidente cinese accoglieva gli ospiti davanti a un enorme manifesto blu che diceva 22esimo vertice economico dei leader dell'APEC Pechino 10-11 novembre 2014, era su un enorme tappeto rosso ed era al Water Cube, questo splendido centro acquatico di Pechino, e da lì i leader hanno partecipato al banchetto, poi grandi fuochi d'artificio e poi i lavori. Questa sera Obama e Xi cominceranno il loro vertice bilaterale con una visita privata, domani il vertice ufficiale con le delegazioni, come vi dicevo, sotto il segno della distensione e anche per dichiarazioni conciliatorie di Obama. The United States welcomes the rise of a prosperous, peaceful and stable China. I want to repeat that. Ecco, avete sentito il presidente Barack Obama che risponde a giornalisti americani, perché ai margini di un incontro col premier australiano Abbott, i giornalisti hanno chiesto a Obama di commentare sulla durezza con cui la Cina ha represso le dimostrazioni a Hong Kong. E Obama ha risposto, ecco, letteralmente: "Non ci aspettiamo che la Cina segua sempre il modello americano. È ovvio che la situazione fra Cina e Hong Kong è complicata, è in una fase di transizione, non la smetteremo di difendere la forza dei nostri valori. Tutti hanno il diritto di aspirare alla libertà, alla dignità nei paesi di tutto il mondo. Anche se, e qui è il punto chiave, l'anche se, l'America ha molti affari da condurre con la Cina." Ecco, direi, ha chiuso un occhio da una parte e ha aperto una mano dall'altra il presidente americano. Forse per questo Xi gli ha dato una calorosa stretta di mano quando è arrivato, rafforzandola tra l'altro con la mano sinistra. Sapete, quando si dà la stretta di mano poi si pone la mano sinistra sopra la stretta, cosa che non ha fatto con nessun altro dei leader. Anche la moglie di Xi, Peng Yuan, in un abito cinese di seta blu elegantissima, anche lei era piena di sorrisi per il presidente americano. Ecco, Obama invece aveva un camicione cinese di seta color ruggine con un corpetto nero davanti, devo dire un po' bizzarro, chiaramente opera secondo me di un discutibile designer locale che chissà, magari ha deciso di ispirarsi alle vecchie divise di Star Trek. Ma al di là delle strette di mano, oggi, già da questa mattina, abbiamo avuto la sostanza degli accordi. Beh, devo dire, l'APEC, dopo tutto, funziona. In our bilateral engagement with China from the president on down, every level. Ecco, la notizia di oggi è che Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un importante accordo commerciale a Pechino per finalizzare il negoziato ITA, ITA, Information Technology Agreement, un accordo per liberalizzare le tariffe su tecnologie informatiche che eliminerà fino al 30% di tariffe sull'esportazione di beni ad alto contenuto tecnologico. C'è naturalmente un importante valore politico per le relazioni fra Cina e Stati Uniti che è implicito in questo accordo, ma visto che questa chiusura a Pechino dell'ITA avviene sotto l'ombrello della WTO, che è la World Trade Organization, e visto che si tratta del primo, pensate, il primo importante accordo commerciale negoziato nel contesto della WTO dal 96, devo dire che c'è una valenza storica di grande importanza per rivitalizzare altri negoziati commerciali su molti livelli, ad esempio per dare impulso al negoziato per la liberalizzazione sui servizi, il Trade in Services Agreement, di nuovo nel contesto WTO. Ecco, qualcuno dirà, ma che noia, questioni commerciali, burocratiche, niente affatto, perché dietro il tecnicismo degli accordi c'è un impatto diretto per tutti noi, per le aziende, per il consumatore, come mi ha spiegato questa mattina a Pechino l'ambasciatore Mike Froman, che è il capo negoziatore americano. L'accordo riguarda i semiconduttori, ma riguarda strumenti come la risonanza magnetica, prodotti come amplificatori, videogiochi, insomma riguarderà anche le esportazioni italiane. Noi come consumatori potremo immaginare di pagare di meno. Una cifra, l'accordo riguarda un interscambio globale di circa 1.000 miliardi di dollari, stiamo parlando solo per l'America di un aumento di 160 miliardi di dollari alla crescita e di oltre 160.000 posti di lavoro. Ma c'è qualcosa di più. Cina e Stati Uniti hanno anche deciso di liberalizzare l'emissione di visti per permessi di soggiorno, turismo, affari, eccetera, eccetera. L'obiettivo americano è di nuovo economico, di portare da 1,8 milioni di persone all'anno il numero di cinesi che visitano l'America e che portano 21,1 miliardi di dollari di ricadute per l'economia USA, che danno lavoro a 190.000 americani. Ecco, questo numero lo vogliono portare a 7,3 milioni di turisti cinesi per il 2021 e la ricaduta a quel punto sarebbe di 85 miliardi di dollari per l'economia e si creerebbero altri 400.000 nuovi posti di lavoro. Ma caspita, ma cosa aspettiamo noi per darci da fare e movimentare il nostro turismo? Da Pechino è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!